molto attivo. Nello stesso tempo sono molto, molto critico, lipungolo. Guardi, Ventura, che alcuni di loro non gliela stanno già raccontando giusta, Davvero? E lei dovrà lottare per scavare, sì, perché ci sono anche delle angustie, delle angosce, delle autoipnosi. A parte il fatto che alcuni di loro parlano una lingua propriamente finta, e quindi la lingua finta ti fa pensare immediatamente a un'emozionalità finta, a idee finte. C'è molto da scavare in queste persone. Perfetto. Sono molto molto interessanti. Ecco, infatti, ma lei davanti a una persona interessante come si comporta? In maniera, non so, dico io, aggressiva oppure in maniera complice, comprensiva? No, complice talvolta, perché penso che l'affetto intellettuale vada conquistato. Ecco. Quindi io di solito parto con una grande sfuriata. Ho già litigato, insultato tutti e ricevuto insulti. Tanto è vero che prima dicevo a Nina, dico guarda scusa, ricordami che devo litigare anche con te perché non vorrei che ti sentissi la figlia della serva.